way to get on the road again. A life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Riprendiamo il nostro cammino settimanale da On the Road a On the Road per ascoltare un nuovo racconto del collettivo Linea S. Io sono Olivia Napolitano, questa è Radio Libriamoci Web. Con il collettivo Linea S abbiamo riscoperto il simbolismo poetico della bicicletta. Questa settimana ascolteremo la voce di Giulia Cocchella, e lei che ha coinvolto tutti gli altri autori a partecipare ad una suggestiva passeggiata a pedali nel cuore della notte tra i vicoli di Genova. E quella passeggiata ha poi portato anche alla realizzazione di queste puntate. Giulia Cocchella ha 33 anni, è genovese, una laurea in storia dell'arte, una grande passione, la bicicletta, che racconta anche sul suo blog, A Ruota Libera. Vi ricordo ora i nostri appuntamenti settimanali del martedì, giovedì e sabato alle 10, alle 16, alle 22 e vi lascio l'ascolto di Tre scatole di latta, scritto ed interpretato da Giulia Cocchella. Questa notte non ho dormito. Non si è trattato del pensiero di te, né della sensazione costante che qualcosa possa abbattersi sul mio letto, di schianto, come per un colpo di vento. Questa notte non ho dormito perché ho girato tutta la città in bicicletta, con un filo di lenza legato al portapacchi e dietro tre scatole di latta vuote. Gran cubetti di giornata, dicono le scatole. Che razza di nome, dico io. Ma intanto pedalo e il rumore che produco supera le aspettative. Sull'asfalto strida di lamiere, come un incidente piccolo, di nessuna importanza. Sul selciato delle vie del centro è rumore di grandine, a chicchi grossi, come mele. Sui lastroni di pietra della piazza sollevo rumori antichi, da carrettiere. Quando sei andata via, pioveva forte. È singolare la selezione che nostro malgrado operiamo sui ricordi, anche quelli più prossimi. Oscuro il motivo per cui scegliamo alcune immagini e ne tagliamo altre. Così so che pioveva, ma non so più se avevamo litigato quella sera, o la sera prima, o un'altra ancora. Ero sdraiato, gli occhi aperti a fissare il soffitto al buio, con il peso della tua mano sulla mia pancia. Dormi? Ti ho chiesto. Non hai risposto. La pioggia sbatteva sulle persiane e sulla tettoia di plastica. Ancora un attimo e la pioggia entrerà dalla finestra, ho pensato. Ancora un po' e ci sveglieremo nell'acqua, il letto che galleggia, le lenzuola umide di pioggia. Ho desiderato a un tratto che l'acqua spalancasse le finestre e lavasse via tutto. La mia bici procede così veloce in discesa che non riesco a starle dietro con i pedali. Smetto di pedalare e tolgo piano le mani dal manubrio, prima una e poi l'altra. Le scatole di latta mi seguono facendo un rumore assordante mentre si aprono le prime finestre e facce attonite, poi incredule, poi furibonde si sporgono dai davanzali e urlano parole nella mia direzione. In un attimo la notte silenziosa si riempie di grida. Il rumore chiama altro rumore finché è chiaro per tutti che così non è più possibile dormire. Tanto meglio, penso, così non sono il solo. Il fracasso che produco con la mia bicicletta a sonagli mi dà soddisfazioni che non prevedevo. Incontro una coppia felice che strascina i piedi lungo la strada. Mi alzo sui pedali e faccio pernacchie scomposte in quella direzione. Ah, il vantaggio della velocità! Il tempo che i due slaccino le lingue, sono già scomparso dietro una curva. Nell'attimo in cui mi compiaccio, dall'alto di un palazzo, la voce di una donna accompagna una scarica di grossi proiettili tondeggianti che quando toccano terra non esplodono, ma prendono a rotolare lungo la discesa, accompagnano il movimento delle mie ruote. «Prenditi anche queste e queste!» ripete la donna. Guardo meglio. Sono scatolette di tonno. Ho desiderato poi che smettesse di piovere. Non sapevo decidermi. Mi sono alzato dal letto, spostando piano la tua mano dal mio corpo. Ecco, ho pensato, adesso sono libero. Libero di fare cosa? Non so. Ho aperto piano la porta del bagno e ho alzato meccanicamente la tavoletta come un bravo animale ammaestrato. Mentre guardavo il mio corpo sotto il neon impietoso dello specchio, mi è venuto in mente Furby, il cane dei vicoli, il barboncino con lo champagne che esegue i suoi numeri alla perfezione e aspetta la ricompensa. Furby sa saltare, sa camminare in cerchio sulle due zampe posteriori, sa fare una capriola canina che lo rende più simile ad un ratto. La sua ricompensa arriva puntuale, sotto forma di biscotto. Ho abbassato la tavoletta. Furby che compie tutti i movimenti che gli sono stati insegnati con un sorriso da sincronette. All'improvviso ho sentito il bisogno di fare una doccia. All'improvviso sento un dolore forte che si irradia dalla scapola sinistra e raggiunge il braccio fino alla punta delle dita. La signora delle scatolette di tonno mi ha colpito. Vedo Dante Alighieri che dice «Contrappasso, ragazzo!» Sento un gemito. Sono io. Provo a muovere il braccio sinistro tenendo il manubrio con la mano destra. Provo a frenare, a puntare un piede a terra, ma è già troppo tardi quando compare davanti a me la sagoma di un cassonetto. È giallo, penso, che fortuna. Poi penso a un cane giallo, al tonno, pinne gialle, al tuo vestito giallo, alla mia rabbia gialla. Poi sento un fracasso infernale e perdo i sensi. Mentre l'acqua della doccia scivolava sul mio corpo, fuori la pioggia continuava a battere sulle tegole del tetto, sul ferro scuro dell'inferriata, sui tavolini del bar. Se Dio esiste, deve essere un musicista, ho pensato. Quella sera mi sono lavato con forza, sfregando con la spugna e con le mani ogni parte di me, a togliere la pelle, a cercarne altra sotto. Dio continuava a suonare il suo improbabile xilofono terrestre, frustava il suolo, percuoteva i muri tesi delle case e intanto io lavavo le mie braccia, le gambe, le dita delle mani, una ad una, come si trattasse di un'impresa di vitale importanza. Sono uscito dalla doccia e tu non c'eri. C'erano ancora sul lavandino 3 scatole di latta vuote per la pizza della sera prima. E tu no. Tu non eri più nel letto, non eri più sotto le lenzuola, sotto il letto, in cucina, sul balcone. Mi hai lasciato di te l'impronta leggera del tuo corpo sul materasso e la forma della tua nuca sul cuscino. Mi hai lasciato un braccialetto che poi saresti venuta a riprendere. Le scatole di latta no, quelle le hai lasciate a me sul lavandino. Mi hai lasciato la radiosveglia che non ti piaceva. Mi hai lasciato. Sono sdraiato. Dall'odore del disinfettante e dall'abbigliamento di chi ho attorno, capisco di essere in ospedale. Eppure chiedo, dove sono? Un uomo vestito di bianco dice, pronto soccorso. La mia testa produce curiose rime in orso contro la mia volontà. Pronto soccorso, corso, morso, accorso, angelo orso. Mi chiedono come mi chiamo e io rispondo. Mi chiedono che cosa è successo. Che cosa mi ha ridotto in quello stato? Rispondo tonno, preciso con fatica, scatoletta di tonno. E questo enorme dispendio di energie verbali induce l'infermiere ad armeggiare con la flebo per aumentare il ritmo delle gocce di sedativo o qualunque cosa sia. Le vedo scendere veloci nel tubo trasparente e penso alla pioggia. Questa notte non ho dormito. Non si è trattato del pensiero di te. Questa notte non ho dormito perché ho girato tutta la città in bicicletta, con un filo di lenza legato al portapacchi e dietro 3 scatole di latta vuote.